Parliamo di un argomento molto delicato, conoscerete tutti la vicenda di Bibbiano, che riempie le cronache da settimane, ma oggi vogliamo parlare di un risvolto particolare causato da questa vicenda. Bibbiano è infatti diventata per molti argomento per attaccare esponenti, PD, giornalisti, ma anche la comunità LGBTI. E oggi c'era proprio una notizia di cronaca su Repubblica che riportava l'ennesimo caso di attacco a questa comunità di un vicepresidente del Consiglio Comunale di Vercelli, Giuseppe Cannata, che ha minacciato di morte, cito testualmente, gay, lesbiche e pedofili, quindi anche assimilandoli tutti in un'unica categoria. Abbiamo al telefono il presidente del Cassero, Vincenzo Branà, che ha vissuto personalmente un'esperienza del genere, giusto Vincenzo? Sì, la mia è una vicenda successa un po' di tempo fa, nel senso è successa la sera del 1º luglio. Io stavo rientrando a casa, erano passate le 10 di sera, e ho ricevuto una telefonata da una persona che non si è voluta identificare, gli ho chiesto chi fosse, non ha voluto dirmelo, e con molta violenza, urlando molto forte, innanzitutto mi ha detto cosa state nascondendo a Reggio Emilia, merde, eccetera, eccetera, e poi è passato immediatamente alle minacce, dimmi dove sei, vengo a tagliarti la gola, bastardo, braccio di merda, eccetera, eccetera. In quel momento io ho subito provveduto alla denuncia presso l'autorità competente, ma ho pensato, come dire, di non rendere pubblico questo fatto, perché penso che la vicenda di Bibbiano, sulla quale c'è un'inchiesta aperta, sia una vicenda importante, delicata, sulla quale tutti abbiamo il dovere di muoverci con grande cautela, quindi non avevo alcuna intenzione di aggiungere questo tassello problematico e destabilizzante al quadro complessivo. Poi però nei giorni successivi hanno cominciato a succedere una serie di cose che hanno varie latitudini, appunto come hai raccontato, dalle minacce che possono attraversare il tessuto sociale a una vera e propria campagna che invece investe il piano istituzionale. Avete letto le dichiarazioni di Maio che assimila il Partito Democratico all'elettroshock, all'abuso sui bambini, e non solo, c'era un atto da giorni, un vero e proprio linciaggio mediatico istituzionale ai danni della consigliera Mori, che è la relatrice della legge contro l'omotransnegatività che va al voto in regione questa settimana e sulla quale si andava a costruire un ragionamento incredibile, grottesco, che però nel suo essere reiterato stava alla fine a essere dominante, cioè diceva la commissione paritaria aveva udito diversi anni fa quel sistema di affidi di quella commissione, la presidente era la consigliera Mori è relatrice della legge sull'omotransnegatività, è vicina al mondo LGBT, quindi è coautrice o corresponsabile di quella vicenda. Tutto quanto si fonda tra l'altro su un aspetto che io trovo il più raccapricciante e che ha a che fare con il cosiddetto movente ideologico. Questi nei primi giorni in cui è stata narrata la vicenda di Bibbiano, è stato raccontato anche dai media più autorevoli. Questo movente ideologico aveva a che fare con il fatto che una delle dirigenti coinvolte in questa vicenda fosse omosessuale e che una delle coppie affidatarie fosse una coppia omogenitoriale. Va detto che la vicenda comprende numerosi casi di affido e uno solo di questi casi coinvolge appunto una famiglia omogenitoriale. La domanda che io pongo è cosa cambia, perché si vuole sottolineare questo dato dell'orientamento sessuale? Se fossero stati tutti eterosessuali, il reato sarebbe stato meno grave, l'eventuale reato sarebbe stato meno grave. Ecco, il voler sottolineare questo momento ideologico è già il primo dato preoccupante, no? Perché si vuole assimilare una condotta eventualmente criminale con un orientamento. E questo, come dire, è funzionale poi a una strategia che colpisce le persone LGBT e le famiglie omogenitoriali. Sottolineo che nei giorni successivi, poi in vari comuni della nostra regione, partiti della destra hanno chiesto proprio la schedatura delle famiglie omogenitoriali, schedatura che noi abbiamo letto sui giornali come boutade, diciamo, di una minoranza consiliare nelle aule, ma che poi, andando a sentire le stesse famiglie omogenitoriali, sembra essere più o meno in atto. Cioè, nelle varie istituzioni questo dato sta cominciando a venire richiesto dalle istituzioni, e questo diventa una cosa assolutamente preoccupante. È in atto quindi secondo te una sorta di strumentalizzazione della vicenda? Sì, beh, senza ombra di dubbio, che ha vari aspetti. cose. Le sentinelle, faccio un esempio: sabato c'era una manifestazione a Bologna delle sentinelle in piedi. Il movimento delle sentinelle in piedi nasce proprio in corrispondenza alla discussione della legge contro l'omotransfobia in Parlamento diversi anni fa, la cosiddetta legge Scalfarotto, che poi non fu mai approvata. In quel caso le sentinelle erano quel movimento che accusava quella norma di essere una norma bavaglio. Le sentinelle tornano, guarda caso, nella settimana dell'approvazione della legge regionale contro l'omotransfobia e utilizzano come slogan, diciamo, di manifestazione un riferimento molto stretto al sistema degli affidi, al rapporto dei bambini, eccetera. Ripeto, la vicenda di Viviano è una vicenda molto seria, su quale bisogna avere molta cautela e sulla quale valgono tutte le attenzioni che valgono per qualsiasi vicenda giudiziaria, compresa la presunta innocenza dei coinvolti fino a prova di colpevolezza. Cioè, siamo uno stato garantista, lo siamo tanto per Salvini quanto per le persone coinvolte in questa vicenda. Però quello che colpisce è che si vuole portare un ragionamento che ha a che fare con un sistema di welfare degli affidi a diventare un ragionamento a danno esclusivo di una comunità. Tant'è che se andiamo a guardare pagine sulla rete, sui social media, il sillogismo stretto che viene fatto è rispetto alla comunità LGBT, cioè i gay portano via i bambini, le coppie eterosessuali li rubano alle coppie eterosessuali, e questo, come dire, è una lettura che viene sollecitata da una parte della stampa, condivisa da eminenti anche rappresentanti istituzionali, in modo che a forza di ripeterla le cose vengono ripetute e poi alla fine diventano vere, no? E questa è un po' la percezione. Noi sui nostri canali riceviamo numerosissimi messaggi di attacco legati a quella vicenda. Diciamo, la politica nazionale o anche locale dove si colloca in questi attacci? Li incoraggia? Ma li cavalca in maniera mostruosa. Li cavalcano i due vice premier. Salvini annuncia la visita a Bibbiano, attribuisce al Partito Democratico un ruolo. E ricordiamo che in quella vicenda tra gli indagati c'è l'ex sindaco Bibbiano, che è indagato però per una vicenda amministrativa, cioè non ha nulla a che fare con i bambini. A che fare semmai con l'appalto, con la cooperativa, se concluso un quale di quei servizi. Lo attacca il ministro Di Maio, che addirittura utilizza il riferimento all'elettroshock, che era uno dei titoli sensazionalisti che uscì all'inizio di questa vicenda, che fu immediatamente smentito. Cioè all'inizio si disse che veniva effettuato l'elettroshock ai bambini, e questa notizia è stata immediatamente smentita. Ed è diventata però una fake news che ha continuato a circolare, ed è gravissimo che un ministro che ricordo essere dotato di uno staff comunicazione ufficio stampa poderoso utilizzi una fake news a fini propagandistici, e lo fa in evidente malafede. Non solo, c'è una capacità di questa strategia di rendere megafono anche persone o personaggi pubblici in maniera non del tutto consapevole. Nel giorno in cui viene annunciata il ritiro delle misure cautelari per lo psicologo coinvolto in questa vicenda, perché aveva fornito i video di tutte le incontri con i bambini ed è stato dimostrato quindi dai video, quindi in maniera molto concreta, che non c'era stata alcuna manipolazione, alcun abuso nei confronti di quei bambini, bene, nel giorno in cui questa notizia appariva, guarda caso, sulle pagine locali del Corriere, Laura Pausini faceva un post invece di preoccupazione e di allarme su quella vicenda, che prescindeva dal quadro complessivo delle notizie. Io immagino che la Pausini non fosse neanche del tutto consapevole e del tutto ben informata su quello che fosse la vicenda, però era diventata in quel momento strumento, io penso inconsapevole, di una campagna che ha precisi mandanti e precise strategie. Se si guarda, c'è un dato molto interessante fatto dagli analisti di Open Data, se si guarda innanzitutto questa notizia di Bibbiano corre sui mass media in parallelo con quello che è stato lo scandalo sui rubli della Russia di Salvini, e se guardate il numero di ricerche effettuate sulle due notizie, guardate come il calcare su Bibbiano abbia sotterrato l'altra notizia. Venezia, e quindi c'è un primo tema. Il secondo tema è, se si guarda invece su una mappa mondiale, sono informazioni disponibili sui siti che analizzano questi dati, si guarda a livello mondiale dove la parola bibbiano viene cercata, utilizzata di più, vediamo che uno dei paesi in cui questa parola viene utilizzata di più è la Russia, e ci dobbiamo chiedere come mai, no? In Russia, perché uno degli elementi sono i famosi bot, cioè sono i famosi profili anonimi di haters, profili che vengono creati ad hoc per creare queste campagne e che hanno una sponda forte in quel paese. Guardate, c'è un tema molto particolare, come le destre per non dimire le donne. Lo abbiamo visto con Carola Rackete. Io penso che il caso, quello che sta succedendo in questi giorni alla consigliera Mori, abbia molto a che fare con quelle tecniche, con quelle strategie.